piano, qualcuno sì, di voi lo vuole. Allora, io sono un macellaio, questa è la prima cosa, insomma, no? Allora, faccio questo mestiere da sempre, perché è una cosa che tramandiamo di generazione in generazione. Io sono la quinta generazione, il nostro marchio cita 1898 perché quella è la data certa dove abbiamo un documento che risale e dove viene raccontata la prima ricetta di come si fa a fare lo speck, perché noi siamo macellai produttori di salumi. Allora, diciamo che un pochino la cosa che ci contraddistingue è il fatto di avere una sorta di contatto diretto con l'allevatore. Quindi l'allevatore si confronta con noi, fa un'alimentazione dedicata apposta per noi e da lì dopo noi preleviamo gli animali vivi, li macelliamo e li trasformiamo in carne barra salumi, che è quello che trovate nel nostro punto vendita. Fare l'imprenditore oggi? Bella domanda. Più che altro voi, che futuro vi aspetta? Nebuloso? Bello, dovete partire con energia e con entusiasmo. Avete un professore che vi porta ad avere il contatto con la vita reale, perché quello che vi aspetta dopo lo studio è il mondo del lavoro. E il mondo del lavoro è una cosa seria. Non si gioca più. Se avete qualche domanda, fatela, perché più che darvi un'infarinatura di cosa siamo noi realmente, no, come azienda, se avete qualche domanda nello specifico... Allora, le abbiamo preparate, no? E vediamo. Vai, chi è che fa la prima domanda? Che lavoro? Come si chiama? Io mi chiamo Nicola. Che lavoro fa? Cosa fa di solito? Io di solito sono quella figura che cerca di coordinare tutte le persone che lavorano all'interno della mia azienda. Quanti anni ha? Io ne ho 47. Perché hai scelto questo lavoro? Perché ci sono nato dentro e più uno si avvicina alla professione di quel lavoro, più tra virgolette diventa bravo e più questa cosa ti piace. Basta avere la curiosità, no? Che è il fattore scatenante. Uno è curioso e ha sempre questa fame, questa sete di conoscenza che ti porta a farti sempre un sacco di domande. La curiosità muove le montagne. Ha fatto altri lavori in passato? Ho fatto qualche esperienza nel mondo contadino all'estero. Ti sei mai pentito di una tua scelta? Certamente, sì sì. Solo che dagli errori bisogna far sì che queste cose possano essere a monito per le azioni future e cercare di non commetterle un'altra volta. Andiamo avanti con le domande. Quale marachella più bella e grande hai mai fatto? Oh mamma mia, questa è una domanda. La più bella e la più grande. Guarda, ne ho combinate talmente tante che adesso su due piedi una non mi viene in mente nel dettaglio, però magari mi arriva adesso se ci penso un po'. Cosa l'ha portato a questo lavoro? Il fatto di avere l'intergenerazionalità. Io sono nato all'interno di questo lavoro e era quasi naturale un proseguire all'interno di questo percorso. A che età ha iniziato a fare il suo lavoro? Subito dopo gli studi, diciamo i 22-23 anni. Poi ho sempre aiutato mamma e papà, sai, facendo le stagioni. In tempi quando io ero bambino, già alla vostra età, durante la stagione aiutavo, no? Vedi, la fettatrice fa questo movimento qua, no? E io quando ero piccolino mi ricordo che il banco era più alto e facevo così col braccio. Affettavo già, aiutavo già, si poteva, oggi non si può più. Però aiutare la famiglia per me era una soddisfazione, no? Lavora a tempo pieno oppure fa pausa pranzo? Io devo assolutamente fermarmi a mangiare perché sennò non riesco a rimanere in piedi. Ti trovi bene a fare il tuo lavoro o vorresti cambiarlo? No, il mio lavoro non lo cambierei con nessun altro lavoro al mondo. Ti trovi bene con tutti i colleghi? Sì. Hai mai cambiato negozio sede? Cambiato no, ne abbiamo aggiunta una. Abbiamo aggiunto un altro punto vendita all'interno della nostra azienda. Ah, scusi. Lei lavora come assistente o il negozio è suo? Il negozio è mio. Deve indossare qualcosa in particolare, tipo camice, tuta, eccetera? Assolutamente sì. Un giorno che il vostro professore vi fa fare un'altra uscita, organizziamo un'uscita nel laboratorio dove potete vedere esattamente cosa succede. Da piccolo quale passatempo preferiva avere? Perdonami, troppo veloce. Ok. Da piccolo quale passatempo preferiva avere? Mi piaceva un sacco andare a sciare. Che liceo ho fatto? Io ho fatto l'Istituto Tecnico Agrario. In che cosa sei laureato, se sei laureato? No, non ho avuto tempo di laurearmi, ho iniziato a lavorare prima. Sapete cos'è l'Istituto Tecnico Agrario? No. Magari me lo spiega lui. È l'Istituto Tecnico Agrario, è una scuola superiore dove si possono fare vari percorsi. C'è il percorso zootecnico, il percorso vitivinicolo, c'è il percorso del frutticolo, della mela. Adesso da recente hanno aggiunto il professionale, che c'è il reparto macellaio, il reparto della pesca e anche il settore della caseificazione. Questi sono percorsi professionali, quando l'ho fatto io non c'erano. C'era un percorso unico per tutti? C'era la distinzione dell'enologia che prevedeva un anno in più, erano 6 anni. Avete capito come scuola? Sì. Sapevate che esisteva una scuola del genere? No, non lo sapevo. Potrebbe essere interessante, vero? Sta un po' rinascendo anche l'agricoltura di montagna, l'allevamento. Se uno ha il desiderio di stare a contatto con gli animali, di lavorare con gli animali, di trasformare anche gli stessi animali in prodotti alimentari, no? La peculiarità nostra della montagna, noi abitiamo in montagna, abitare in montagna è una risorsa, non è un fattore penalizzante. Adesso magari la città offre più servizi, offre più opportunità, però l'abitare in montagna è una ricchezza, è una ricchezza. Ricordatevelo quando sarete un po' più grandi, perché chi abita in città, adesso voi fra qualche anno affronterete il vostro percorso di studi a Rovereto, Trento, nelle vicine cittadine che arrivano, quindi insomma fate il vostro percorso di crescita e lì avrete modo di toccare con mano cosa significa le comodità offerte dalla città, però la montagna ha questi spazi, questi silenzi, queste cose che apprezzate. Adesso magari non ve ne accorgete, ma quando diventate un po' più grandi le coglierete. Faccio una parentesi simpatica. Mi piace molto quello che il percorso che vi sta facendo il vostro docente, il professore, perché in estrema sintesi vi sta insegnando una delle parti più importanti della comunicazione, che è l'ascolto. Perché hai scelto questo lavoro? Perché ho scelto questo lavoro? In realtà io sono nato all'interno di questo lavoro, quindi è una passione che viene consolidata, viene tramandata da papà figlio, no? È proprio una professione, non è che io l'ho scelta, mi ci sono ritrovato all'interno e mi piace dire l'ho accettata, l'ho ben voluta e adesso la sto cullando nella consapevolezza di un miglioramento continuo. Quella sticella non deve mai rimanere lì, bisogna sempre puntare un pochino più in alto per cercare di raggiungere un obiettivo che dovete fissarvelo, deve essere un sogno, però insomma ci c'è vuole. Un'altra domanda? Dimmi. Hai mai fatto dei viaggi di lavoro? Viaggi di lavoro sì, fortunatamente ne ho fatti tanti. Ne ho fatti tanti in Europa, qualcuno anche un po' più lontano. Adesso? Ho fatto anche un viaggio in Sud America dove abbiamo fatto delle docenze specifiche del nostro lavoro. In Argentina è stato molto molto bello. Come è stato molto bello partecipare a alcuni workshop in Germania, no? Al confine Saarbrücken c'è una scuola specifica che fa il nostro settore e lì è stato molto bello proprio condividere delle esperienze con loro. Come è molto bello essere ospite in alcune scuole e poter raccontare o far toccare con mano cos'è la nostra professione anche agli allievi. La cosa interessante è che non si finisce mai a studiare. Mai. Si impara sempre. Qui c'è un'altra domanda. Ha dei figli? Sì, ne ho due. E ha trasmesso anche loro la sua stessa passione? Attualmente stanno lavorando all'interno dell'azienda tutti e due con me, sì. Prego. Anche anche suo papà provava lo stesso interesse per questo lavoro? Certamente, io è proprio la passione nella nostra nobile antica arte, l'ho proprio ricevuta da papà. Ma fin da subito, cioè da quando era bambino? Da sempre. E papà l'ha presa dal mio nonno, il suo papà, il quale a sua volta l'ha presa dal suo babbo, che era il nonno di mio papà. Quindi andiamo indietro parecchio.